mi ritornerò sincero e senza il mio famoso brano di disarmarmi osò parolina. Vegno di Ren, ma temo che torniate alla vostra follia e che lo paghi con la vita mia, come pure faceste ad Angelica e Midon, che voi uccideste. Purtroppo hai detto, ero purtroppo unito, e non mi inghiotte il fumo, non mi folgora il cielo, dove un mise Orlando n'andrai per ritrovar, chi con la morte ti tolga il tuo rossore. Penno di Silio, ritorna impazzire, e meglio di fuggire. Per farmi a diletta, per te la vendetta, Orlando si muova. Non più, udite tutti, quasi a